magari sei andato lontano, proprio un canale sotto l'uno. Senti, ho trovato 8-5, no, ho detto 9-5-3, invece era, volevo dire 8-5-3. Ecco, il dipolo mi riceve forte. Sì, vabbè, io sono 8-5-5, tanto non è che faccia una differenza. Ha terminato di aggiornare? Riavvio in corso, proprio in questo momento, vediamo. Adesso dovrà fare tutto anche l'altra tiritera. Sta facendo di nuovo il riavvio, American Mechatrox, boh, non so cosa che è apparso, adesso c'è. IXE, vabbè, aspettiamo un paio di secondi. Forse sta facendo una lettura, aspetta se appare la pagina, se è entrato nello schermo. Windows, è apparso l'icona di Windows, vediamo le icone quelle delle pagine se ci sono. Sta rotellando la girella. E si lascia fare, che questi sono momenti molto delicati. Se no sfasci tutto. Il bello degli altri computer è quello XP, quelli che c'erano vecchi, tutti questi problemi di cosa non nasce. Tu mi dirai, questi sono di tecnologia 100 volte superiori, però di impallamenti e cose del genere. Poi se stava caricando, spegni il computer e poi metti in modalità provvisoria, ti dà l'ultima che hai caricato e andavi. Non era propriamente così, perché ha conosciuto tutta la generazione di Windows. Ci sono stati Windows che si, tipo, qual era quello, Windows Millennium, credo, che si imballavano alla basura pur senza toccarli, quindi lasciamo perdere, questo è stabile e funzionale e va molto bene. Cioè tu non hai trovato problemi con 10? No, io lo uso da tanto, da quando è uscito, ho avuto tutte le versioni, e gli unici problemi che ha dato, che però li ho risolti subito, sono stati a livello di drive, che siccome lui non fa un aggiornamento normale come ti faceva una volta, lui fa un aggiornamento del sistema operativo, praticamente ti sta mettendo un'altra versione di tutto il sistema operativo, è come fa anche Android d'altronde. Android può passare dal 7.0 al 7.5 al 7.8. Operazioni sugli aggiornamenti, completamento operazione 35%, 36%, non spegnere il computer, di nuovo torna a 36%. Ma questo fatto di aggiornamenti nel portatile mio, quello che uso in officina, cacchio, non dico ogni settimana, ma ogni 10 giorni ci sono sempre aggiornamenti, non spegnere il computer, lo devo lasciare così, ma è normale. Sì, c'è anche l'impostazione per fargli fare una volta alla settimana o una volta al mese. Però gli aggiornamenti sono importanti, perché loro man mano che vanno avanti possono scoprire che ci sono dei buchi, dei pericoli per la sicurezza e così via. E a prescindere dalla seccatura che tutti ci hanno, io compreso, gli aggiornamenti permettono di avere comunque un prodotto sempre pronto a rispondere a eventuali attacchi, ecco. No, io quello dell'officina devo tutto svuotare, a parte non c'è tantissima cosa, ci sono documenti, cose leggere, dai, però voglio svuotare completamente e ricaricarlo, che è lentissimo, c'è tanta, dico, la mondezza di file inutili, di cose. Io non ho mai fatto niente, ce l'ho dal 2013 quel computer, non gli ho mai fatto niente, né pulizia né nulla, infatti è lentissimo, per partire ci impiega mezz'ora. Che sistema operativo? Windows 10, però mi chiede, non è stato aggiornato, cioè fa tutti questi aggiornamenti, però deve esserci qualcosa su di Microsoft, dice il computer deve essere aggiornato, non so che cosa mi appare. Alle versioni successive. Ah, se vuoi fare una pulizia, io ti consiglio anche di, dato che costano poco, di metterci un piccolo SSD, anche da 250, va più che bene. Reinstalla il sistema operativo, così ti installa l'ultimo, le fa gli aggiornamenti e vedi che diventa una bombetta, l'altra disk te lo tieni e lo usi come secondario magari, in modo da poterlo sfruttare se c'è dati da conservare, eccetera. Infatti voglio fare così, ma ne uso uno e sale. Allora siamo qua di nuovo da capo, mi sono di nuovo apparsi l'ID e password. Vediamo se c'è, se me li dà. Sto tentando di connettere. Sono rimasto a quello di prima, stranamente, come mai? Peccato che io me li abbia. Dimmi solo il primo numero. Allora, l'ID 546, sei riuscito ad entrare? Sì, i primi numeri. No, dico, sei entrato? No, se non ce l'ho passo come faccio a entrare? Ah, metto solo diretti, io pensavo ce l'avessi già scritti i numeri. No, te li devo dire tutti allora. Tanto sarà diversa, i primi numeri proviamo, se è uguale. No, non sono cambiati, te li dico di nuovo, 546-861-333. Torna, quello è l'ID... La password, ho detto. Ah, scusami, quindi Sassari, ancora Milano minuscolo. Poi? 44, sempre poi minuscolo, Bologna, ancora X. Finito? Ehi, a quella di prima è rimasta invariata. Io ho dato invio, vediamo un po' se mi fa collegare. Perché ha memorizzato quella pagina di prima, si è collegato, sì. Sta procedendo tutto tranquillo, Gianfranco. Sì. Che computer è quello? Un Lenovo, vero? Sì, Lenovo. Cavolo. Sto cercando... Vediamo un po'. Al computer c'è collegato anche gli altri parlanti? No, non lo. Non ne hai? Sì che ce li ho. Perché non ci colleghi? Aspetta, davanti c'è un ingresso per le cuffie. Utilizzo l'ingresso della cuffia, quello lì. Utilizza l'ingresso della cuffia. No, cacchio, questi che mi ha dato Claudio di altoparlanti non hanno jack, c'hanno RCA, strano. Non si vi annuta. Dovrei mettere delle cuffiette, ma perché devi fare qualcosa parlando? Almeno a provarlo. Non capisco perché non è collegato. Veniamo all'ingresso. Una cuffietta con un microfono, ce l'hai un microfono, qualcosa? Aspetta, ci dovrei avere quello cinese, se no ce l'ho buttato il microfono con il microfono. Niente Gianfra, non posso fare niente perché non so dove l'abbia messo, cioè forse nell'altro armadio dove metto le cose. Se no cosa possiamo utilizzare? Se uso la cuffia e buh! Davanti cosa c'è? Anche quella del microfono? So, microfono e cuffia, sì. C'è il microfono, quindi c'ha due connettori separati. Va bene, dai. Vediamo, ascolta, prova a infilare il connettore dove c'è il microfono. Che connettore ci infilo? Perché ci vuole quelle cuffiette, c'ho la cuffia, c'ho io, il microfono non è così sottile. Ma non c'è un connettore a tre, da qualche parte. Allora io lo sto guardando davanti, c'è due mini jack, uno per il microfono e uno per le cuffie. Sì, d'accordo, quelli sono connettori a tre che vanno dentro. E tu, di qualche altoparlante, di un microfono, non c'è niente di connettore. Io ho le cuffiette e mini jack e basta, però il microfono con la cuffia incorporata, quello non saprei dove trovarlo perché le ho tolte, tanto ho detto non mi serviva, l'avevo preso con un altro, con un apparecchio, ma l'avevano là. Va bene, ok, allora quel mini jack ce l'hai a tre. Cosa vuol dire mini jack a tre? O è mono o è stereo? Non riesco a capire cosa vuol dire tre. Cioè se c'è un cavo mini jack solo, senza niente. Anche senza niente, mi fa bene lo stesso, giusto per infilarglielo. Ah, stai dicendo se ce l'ho, forse sì, qualche spezzone ce l'ho, aspetta, fammi vedere un secondo, scusami. C'è un mini jack mono. Ci serve un tubo, di sono tutti da tre sono. Vabbè, ascolta, comunque ti devi comprare il mouse, giusto? Sì, allora l'ho infilato dentro, il mini jack mono. Aspetta se c'ho qualcosa di stereo, guarda un attimo, scusami un attimo. Eccolo qua, ce l'ho anche stereo, vai. Sì. Intanto mi ha detto che c'ha, vediamo un po', sì, al mio via in fila lì, aspetta, ne lo spostiamo un pochettino su cosa. Vediamo un po'. C'è un mini jack con tre uscite, i due canali destra e sinistra e l'uscita video. Sì, infila questo mini jack, vediamo cosa succede. Nell'ingresso microfono, dici? Prova lì un attimino e poi lo scolleghi. Vado adesso? Vai. È infilato. Cos'è quello? Input e output radio, non c'entra niente. No, ma... aspetta, devo controllare una cosa. È sempre inserito lo spinotto, ricordati. Sì, sì. Aspetta, devo controllare una cosetta. Oh, ce l'ha fatto. Lo puoi anche staccare quello spinotto. Lo stacco, no, perché c'ho anche le cuffie col mini jack, se volevi fare qualcosa. No, no, non c'è bisogno. Adesso ti faccio vedere il programma. Ok. Tolgo lo spinotto, ho già fatto. Eia. Ok, staccato. Allora, questo è un ingresso, sono due card. Ce n'è una sola e quindi ha messo microfono, dispositivo eccetera eccetera eccetera. Ok, ci siamo. Eia. Questa è l'uscita da cui tu sentirai i suoni. Lui lo mette di default, tanto ce n'è una sola scheda audio, quindi va sul lato parlante. E fin qua è chiaro. Queste sono le porte. Ne ha intercettato una che è la comuna, probabilmente ne è una sola, a cui eventualmente andrà messo la COM del TS2000 per fare il controllo da remoto o per controllare il PTT, ma quello è un terzo qualcosa che poco ci interessa. Ok? Passo alla presentazione del programma. C'è qualche spinotto attaccato? No, no, non c'è niente attaccato. Ma se io attacco il 2000 diretto, si fa, non c'è bisogno di mettere né interfaccia né niente? No, no, non c'è bisogno di niente. Ci vuole solo un cavetto diretto. Ma non dovresti trovare dai cinesi. Ma cavetti quelli crimpati stai parlando, quelli che usi per dire per attaccarti il cavo diretto della wifi, quelli lì, tipo telefonico? No, assolutamente no. Sono cavetti cavetti di porta seriale, no? A 9 pin. Ah sì, ce l'ho, che tipo quelli bugia, quei cavetti lì stai parlando. Sì, più o meno sì. Eccoci, diciamo, è possibile perché non c'ha questo cavolo, no, no. Forse deve rilevare un'uscita, praticamente. Mannaggia, deve essere una scheda vecchia. Quindi come si può fare? Ah, santa pace. Cioè praticamente il programma va in aria se vede dei connettori inseriti. Allora, il TS2000 c'ha l'uscita a 9 pin e poi dall'altra parte io ho il cavo a 15 pin. Si può attaccare a 15, cos'è? A 15 mi sembra, o 13, non ricordo. No. Non facciamo questi pasticci. Allora, quello è un secondo step. Dopo, anche perché tanto bisogna scaricare il programma e te lo devi installare, perché c'è anche di mezzo l'inserimento con una password. Quindi lasciamo da parte, occupiamoci adesso di questo PC che c'è qualche problemino con la scheda audio dal punto di vista dell'inizializzazione del programma. Ok, quindi rimetti lo spinotto sul coso lì, sul come si chiama, davanti, sul micro. Lo sto inserendo adesso sul microfono, quello di prima lo sto inserendo adesso, inserito. Ok, vediamo se ci fa bene, no? C'è solo 2 mega di memoria, quindi è per quello che sta tardando, vedi, sta un po' faticando. Allora, t'avevo spiegato questi, adesso io provo ad andare direttamente sulla schermata di uso, sperando che ce la dia. Non si accorge, no, ce la sta dando. Ecco qua. No, ma la prima cosa che ti chiede è di mettere il nominativo, ma a noi non ce ne frega niente. Allora, vedi, adesso sta recependo disturbi più che altro, perché segnale non ce n'è. Questi sono tutti i sistemi che ha, quindi 63, 125, PSK, RTT, Packet, Amtor, e Voice, insomma, e tutti così. E adesso lo vedo diverso da quello che lo vedi tu, perché lo schermo è molto piccolo qua. Però tu lo dovresti vedere in grande, c'è una parte professionale, c'è una parte amatoriale, giusto? Sì, sì, vedo un sacco di cose, di spazi, di cose, di colorati, di tutto. Ok, dimmi una cosa, tu vedi c'è le cuffie per caso? C'è le cuffie, delle cuffie da inserire in quei buchetti, non ce le hai, no? Sì, sì, le posso inserire, le inserisco? Sì, sì. Dato che non c'è altoparlanti, quando le hai inserite dimmelo. Sì, le ho inserite adesso. Io passo in trasmissione. Dimmi se senti rumore di telex. Sì, sì, sì, le inserisco. Si sente. Ok, guarda se scrivo. Adesso scrivo qualcosa. Ma tu stai mandando delle formazioni, cioè puoi già trasmettere tu. Vedi, sotto ha già trasmesso questa lettera, è casuale. Puoi anche programmare queste parti in modo che sia automatico, vedi? Non dice da chi perché non c'è il nominativo, capito? Questi sono tasti veloci di trasmissione. Allora tu in questo caso stiamo facendo un collegamento solo visivo, niente di più, non stai trasmettendo niente perché non abbiamo né antenna né nulla. No, non abbiamo il collegamento al ricevitore, che è una cosa diversa. Però questo può essere fatto in tempi brevi, appena ti dico come fare il cavetto di collegamento, a meno che non ce l'abbia già pronto, ma poco ci credo. Allora io un cavetto già pronto per il 440 ce l'ho, che l'ho attaccato come ho detto prima, c'è un'uscita RCA che l'attacco all'analizzatore di spettro e alla piazza per vedere l'indicatore di livello. Di che livello però? Stiamo parlando di livelli audio. Uscito la CC2, ho utilizzato due piedini di segnale in bassa frequenza da 200 mV, quello fisso. Ecco, quello in teoria dovrebbe andare bene a collegarlo all'ingresso microfonico, o meglio, sarebbe meglio quello di linea, alla linea out, per essere, anzi, alla linea in. Andrebbe bene anche il microfono, ma va regolato per non saturarlo. Ma scusa un attimino, se dovessimo utilizzare il 2000, il 2000 c'ha già un'uscita con cavo di rete, tu stai parlando? No, il cavo di rete è un'altra cosa. Io sto parlando dell'uscita che ti dà la CC. Tu mi hai detto che c'è quel cavo che esce dalla CC, giusto? Sì, sì, sì, quello è già collegato ed esco da lì un canale, perché ho preso solo un canale, perché è mono segnale, e l'ho portato all'uscita, cioè dei connettori RCA, li ho attaccati direttamente all'analizzatore di spettro e mi dà lo spettro e il livello del segnale audio, diciamo, il segnale audio, quello come quando tu ti ascolti un altoparlante, mi riesce però la tensione fissa calibrata a 200 millivolt. Sì, ok. Quindi quando la gente parla se vedi l'onda che c'è, giusto? Certo, hai detto bene. Il segnale audio, non parliamo di radiofrequenza, il segnale audio, l'uscita audio è come che io mi attacchi una cuffia o un altoparlante. Questo segnale fisso a 200 millivolt arriva all'indicatore di livello. Esatto, sì, sì. Ecco, quella lì a noi invece ci interessa per farla entrare nell'ingresso microfonico. Anche se 200 millivolt sono un po' tanti, ancora meglio se fosse l'ingresso di linea, perché come tu sai tutte le schede audio hanno vari ingressi, quindi nella parte posteriore vedrai che ci sono anche fino anche a 6 ingressi a seconda del tipo di scheda che hanno montato. Ok, fin qua ci siamo. Sì, ma ti volevo chiedere una cosa. Se anziché utilizzare la CC2 del 440 e la facciamo col 2000, il 2000 ce l'ha un'uscita già diretta che l'attacchi tipo un USB o un altro sistema di connessione, anziché utilizzare quella presa a 10 poli a CC2? No. Quella lì ACC2 è specifica per fare questi collegamenti, se vuoi trasmettere e ricevere bene, perché all'interno c'è anche un modem tra l'altro, quindi quella lì è principalmente utilizzata per collegare al 320, a trick and track vari eccetera eccetera, di lì ci interessano solo tre piedini. Quindi piedino di ricezione che ti dà l'audio e piedino di trasmissione che ti manda in trasmissione. Ok? Sì, adesso ti faccio una domanda. Io sto guardando manuale d'uso del 2000 e c'è questo connettore, c'è scritto si abbina ad un connettore RS232C femmina con 9 piedini per il collegamento a un computer mediante una porta di comunicazione seriale, utilizzate anche per la funzione trasferimento rapido dati. Questa non ci interessa a noi. Questa è del TS2000. È del 2000. Noi la stiamo già utilizzando quella, perché se fa parte della presa CC, la seriale lasciala da parte che serve per l'eventuale programma di controllo via computer dell'apparecchio, dato che tu volevi vedere l'immagine, la frequenza e le memorie eccetera eccetera. Che poi dietro a fianco a questo c'è un altro connettore, sembra un connettore microfonico, e c'è scritto connettore pane, collegare a questo connettore un cavo proveniente dal pannello remoto opzionale, che tu non c'hai chiaramente. Sì, no, non ce l'ho, ma io ti volevo dire, questi due tipi di connettore, questo 232, RS232 o questo seriale tipo telefono, non ci interessano per fare questo discorso che stai facendo tu. Ora, come ora non ci interessano, a noi ci interessa la presa ACC, adesso non c'ho lo schema del TS2000, però quella con tantissimi piedini, che noi siamo tre file addirittura di piedini. E di quei piedini ci occorre l'ingresso audio, il PTT eventualmente, giusto per mettercelo, e l'ingresso microfonico. Basta, e questo va preso dalla CC che ce li ha proprio ad hoc. Se tu ti guardi il manuale lo vedrai anche messo bene in chiaro, collegato addirittura a un modem telescrivente. Sì, infatti qua, la CC2... si abbina a un connettore DIN maschio a 13 piedini per il collegamento di varie apparecchiature accessoriali, quali un TNC / MCP esterno o un terminale RTTY. Appunto. E tra tutti quei piedini, poi in seguito ti dico anche quelli, l'importante è che tu c'hai quella presa, ecco, ce l'hai quel connettore. Sì, ce l'ho un connettore, ne avevo preso due, ma io pensavo che, qua stanno utilizzando la CC2, eccolo qua, utilizzare il connettore a CC2 per collegare l'apparecchiatura RTTY, collegare la linea al piedino 2 del connettore a CC2, quindi collegare la linea ingresso della demodulazione della apparecchiatura RTTY al piedino 3 del connettore ACC2, non utilizzare lo stesso alimentatore per dire vabbè questo non ci interessa, per cui arriva direttamente. Cos'è questo? Cosa vuol dire MCP? Adesso la sigla non me la ricordo, però quello poi te lo fai con calma, ti dico io quando sono riuscite da che dovrei saldare. Saldature, come stai? Vabbè, non è che sia molto bravo. Comunque, i connettori da 13 pin sono il numero 1, uscita F dal subricevitore, poi c'è uscita 2, emissione tasto RTTY, uscita 3, uscita alta frequenza del ricevitore principale, 4, massa, 5, controllo dallo squelch, 6, non collegato, 7, controllo squelch del ricevitore secondario, 8, massa, 9, controllo della linea PTT del ricevitore, 10, nessun collegamento, 11, ingresso audio microfono, 12, massa e 13, comando PTT. Appunto, aspetta che andare sul manuale per vederci qualcosa. Allora, quindi con la presa RS-232 non serve a niente, e anche se uno si vuole collegare un monitor, una cosa del genere, è inutile. Quella lì serve per collegare una seriale che andrà al computer, con cui puoi trasmettere, puoi vedere sul computer e fare tutti i telecontrolli del TS2000. Ma ripeto, per la terza volta, che quella lì lasciala da parte per il momento. Sì, ho capito che non c'entra niente con quello che dobbiamo fare noi, però se io l'attacco direttamente al computer, all'unità del computer, mi appare o devo mettere installare qualcosa per vedere quello che dovrebbe dare il coso, l'apparecchio? No, di prima bisogna scaricare il programma, una cosa che faremo a step per essere ordinati, perché fare quattro cose contemporaneamente esce fuori un casino e poi è anche rischioso, quindi facciamo le cose bene, con calma e con attenzione. Assolutamente, adesso questo sta sempre scrivendo questo cacchio di programma, tu lo vedi? Sì, aspetta che sta guardando questa, sì, ma basta mettere lo squelch, vedi, guarda, adesso sparisce. No, siete alto, ecco, sparito, pulisco anche lo schermo, clear, contento. Ma questo, oltre a queste informazioni, ti può far vedere altre cose? E tipo? No, tipo informazioni di quello che, il segnale che ti sta arrivando, quante velocità, tutto, tipo come quando vedi un S-meter che ti dà l'indicazione di livello del segnale, la frequenza, queste cose si possono vedere, la qualità del segnale, dai, queste cose qua dico. Guarda cosa succede adesso. Cosa tappare? Sta scrivendo un comando, una parola, eccetera, eccetera. Io chiaramente lo vedo in ritardo, però questo ti appare tanto altro. Tu pensa che ieri stavo ricevendo l'Australia e le isole di Pasqua anche, su una frequenza intorno ai 12. Con questo tipo di comunicazione che qua non vedo, perché purtroppo lo schermo mi sta riducendo tutto, e comunque più o meno era, ecco, guarda, questo professionale era su questo, allora, il VDL2 vedi gli aerei, l'HFD ti dà tipo HS, una cosa del genere. Poi qua c'è di Star, va bene, DMR, però questi sono da trattare insieme. Orbicom sono i satelliti, l'EpiBird, l'Argos, questo è, da qua vedi le comunicazioni navali. E poi cosa ci abbiamo? Qua c'era in studio l'FMRDS, però ho visto che non l'ha ancora implementato, l'AIS per le posizioni delle navi. Quindi di cosa te ne dazzi un bemme? Ma anche il meteo, bollettino meteo. Se vuoi sentire ad esempio la Maddalena, quello lo possiamo sentire nell'applicazione amatoriale, perché si usa questo, che sia amatoriale sia professionale, l'AmTorFec, e su questo puoi anche trasmettere. Ma quelle barre che si vedono in nero delle righe, quello è l'analizzatore di spettro? Sì, esatto, quando tu collocherai. Guarda, se adesso non c'hai un connettore adatto, non c'hai uno stereo, no, come connettore, però giusto per fare una prova, l'avresti potuto collegare all'ingresso cuffie, e l'ingresso cuffie del computer l'avresti dovuto collegare anche alla presa PON cuffie dell'apparecchio. Tanto a noi un'uscita audio ci serve, non è che dobbiamo faticare tanto. In maniera provvisoria, giusto per renderti l'idea, già adesso lui può fare queste cose. No, interessante, molto molto interessante. c'è tanta roba, per dire, non pensavo ce ne fosse così tanta. Ti devo mettere anche il programma di registrazione, quello che uso io per dare controlli, che quello ha altre funzioni particolari. Poi ti devo mettere per vedere l'FT8. Tieni presente che da questo programma sia dall'altro di cui io ho la licenza personale, sia su un altro che di un programmatore americano, quindi ti devo scaricare tanti programmi per farti un po' girare il mondo. Dall'altro ricevi l'FT8, l'FT8 fa tutto da solo, non devi fare un tubo, però il coso generale è che per ricevere, dico ricevere, non trasmettere, per ricevere a noi ci occorre un'uscita audio, e l'uscita audio preferenziale ovviamente, quella più adatta, più figa, è quella che c'è il DS2000 dietro nella CC, che è tra l'altro collegata al modem, se non ricordo male, il che ci permette di sentire segnali con una banda molto larga, e poi vedrai quali sono. In più cosa ci abbiamo? Fammi pensare. Ecco, per la trasmissione invece noi utilizzeremo l'uscita degli altoparlanti, opportunamente limitata, perché ovviamente se non è troppo alta, da una piccola resistenza e basta, messa in serie al cavetto, tutto lì. Poi se vuoi andare in trasmissione premi il Vox, che è il TS2000, c'ha tranquillo, efficace, e va in trasmissione anche da solo, devi premere il tasto, questo tasto qua che ti faccio vedere, questo qua, lo vedi? TX, e lo va in trasmissione. Se la vuoi automatica, va da qua. Insomma, si fanno tante cose. Allora, Uticiclo Radio Londra, sto guardando, radio controllata, alle 19.55, sono un'ora indietro rispetto a noi. E dimmi una cosa, le bande di frequenza qua, dove sei? Quale so, quanto siamo? A 1000, 1500, 1400? Bande di frequenza di che cosa? Dell'audio di che? No, adesso io leggo qua 500, 1000, 1500, 2000, quelle cosa sono? 500, non le vedo, dove sono? Space Mark, quello. No, c'è scritto qua, allora leggo, sotto Space Mark c'è scritto 200, 500, 1000, a 1000 c'è una barra verticale tipo analizzatore di spettro e tutto il resto è muto, poi c'è 1500, 2000, 2005, questa scorre questa cosa qua, che cosa significa? Non capisco. Allora, su questa ci usciranno tante barre, se ad esempio stanno trasmettendo in VSK, vedrai tante barre che si muovono così, che scorrono. Se tu ci clicchi vedi che io mi posso muovere qua, adesso più efficace, io ce l'ho lenta per ovvi motivi, vedi ancora non, io la vedo che ancora non si è mossa, comunque ho chiesto il TSK e non me l'ha data. Non so, tu mi vedi, sono connesso. Mi vedi che muovo il mouse? No, adesso non lo vedo più. Il mio mouse, l'ho provato e si muove. Io me ne vado su 1500. Aspetta, mettiamoci su. Tu mi vedi a me? Mi sono messo sopra 1500. Sì, è vero che sei su 1500. Sì, ti devi muovere perché segnali. E puoi avere anche su tutta questa fascia. Tu a me mi vedi che muovo il mouse, no? Sì, lo possiamo muovere tutti e due, quindi il mouse, pensavo fosse solo tu. Sì, però uno, solo uno alla volta. Quindi va da qua a qua, vedrai un colore giallo che scende, che scorre, quello sarebbe tra virgolette il QRM, si può dire, e tanti segnali che scorrono. Con questi segnali tu potrai cliccarci e andare a vedere cosa c'è, ecco. E poi cosa ci abbiamo? Ci abbiamo l'ALE, l'SSTV, vediamo se ci riesco a vedi, c'è questa immagine predefinita, ti devi scegliere, eccola, vedi la barra? Quindi c'è una cascata pure. Eccola lì, dicevo. Adesso sta avvenendo un rumore che c'è, evidentemente, sta scorrendo con questo rumore di fondo che c'è. Paletta del flotto. No, di lusso, molto molto molto completo, soprattutto interessante, c'è una marea di roba da divertirsi. Questo invece è il fax, il classico fax delle cartine meteo. C'è bianco e nero, perché è lo standard dell'HF, però c'è anche a colori. Non mi dire qual è a colori che non me ne metto più. Quindi teoricamente tu vedi il tempo di, sai cos'è, Meteosat o Inmarsat, cosa, da dove lo vedi, e ti puoi anche stampare la pagina, volendo, se ti metti una stampante. Beh, sì, te lo puoi salvare. Tu vedresti, in questo caso, nel caso particolare, tu vedresti una cartina, che ne so, ti colleghi con Roma Radio, oppure con tantissime, ce ne sono tantissime veramente, e vedrai delle linee scorrere tipo fatte a matita con scritto tante sigle, sono cartine meteo, non so se l'hai visto, con i venti, con le frecce, ecco il disegno, diciamo, della nazione, in cui è tipo la Sardegna, l'Italia e così via. Dopodiché uscirà la dicitura carta meteo o meteo fax delle ore lanciato da DDH, ad esempio, che è il coso meteo tedesco. Sì, sì, sta caricando, no, già le conosco le cose, le ho già viste anche di recente, le piantine, le cose, le mappe meteo, con il coso, vedi, tipo, diciamo, in controluce vedi il disegno, il contorno della Sardegna e poi sopra tutte le indicazioni. Adesso sta aprendo la pagina, probabilmente non c'è niente, per quello del meteo, del coso meteo, della pagina meteo, così mi dice. Sì, questo è il cosiddetto rumore, capito, questo è il rumore di fondo. Nessuno ti vieta di andare in trasmissione, vedi? Io adesso sono lentissimo qua, però non lo vedo attivato. Lo dovresti mettere un'immagine e lui poi la trasmetterà. Una domanda più tecnica, allora io ho questo monitor, ho due monitor, uno 16 nuni che c'è anche l'altoparlante incorporato, sembra proprio un televisore perché c'è anche il sintonizzatore TV, questo DayView, e a fianco c'ho il Philips color rettangolare, però in 4 terzi, come è impostata qua la pagina, 4 terzi o 16 nuni? Guarda, io sono in remoto e non la posso vedere, perché io vedo solo una, dovrei andare in impostazioni per vedere tutte queste cose che mi stai chiedendo. Se vai da cinese a prenderti un mouse decente, ne puoi approfittare per fare anche due acquisti. Un acquisto può essere una scheda audio, che io le uso e sono molto fighe, perché sono USB, e quindi lascio perdere questa scheda della Realtek. E sono più, come si dice, adatte all'uopo, perché sono semplici. La scheda audio costa esattamente la bellezza, credo, di 3-4 euro, una cosa del genere, sono piccolissime, hanno due buchi, anzi ce ne ho tante qua, vediamo dove diavolo è. Allora, c'ha due buchi, se vuoi ti dico anche il nome, si chiamano Link Lima India November Quebec 3D Sound, c'hanno una presa arancione e una verde, ed è tipo penna USB, è una pennina USB con dentro una scheda audio, te la riconosce istantaneamente il PC, ed è di facilissimo uso. Allora, a me Claudio me ne ha dato una di scheda audio esterna, però deve essere una cosa professionale, perché c'è anche l'ingresso microfonici. Ah, sarà quella che le ho dato io magari, ma qual è quella con tante, con anche con un manopola eccetera? Quella lì che c'è, e c'ha cos'è, della GBC mi sembra che sia. No, quella lì è, era di, cioè la usavo io sempre per questi sistemi, però poi ha iniziato a dare rogne ed era anche troppo grande, e quindi gliel'ho data a Claudio per eventuali utilizzi, ed è USB. Però ripeto, per il poco che dobbiamo fare noi, che non è tanto poco, è sufficiente una di queste schede. Dai cinesi la prendi insieme al mouse, costa una fesseria. Sì, dopo mi dice esattamente cosa devo prendere. Quindi questa non servirebbe a niente qua, questa che mi ha dato Claudio. No, perché c'era qualche difetto, poi dovresti scaricare drive, il programma è un po' pesantuccio, insomma, questo computer più agile è migliore, perché ho visto che c'ha solo 2 mega di memoria, e quindi non è proprio il massimo. Quindi accontentati di avere cose semplici ma che funzionino a prescindere, anche perché c'è ancora molto da lavorarci su questo PC. Nulla, dai, non era niente. Dimmi una cosa, come si chiama questa scheda che mi stai dicendo tu? Allora, guarda, ai cinesi chiedi, mi serve una scheda audio USB, e il nome di tutte queste schede te le puoi anche guardare tu da Muraya, credo che l'abbia presa, e Linku Lima, India, November, Quebec, 3D Sound, così non ti confondi con altre cose. E all'estremità della scheda opposta alla presa USB, che è un 31, tu immagina una pennina USB, c'ha 2 entrate, una col disegno delle cuffie e l'altra del microfono. A noi questa ci serve come il pane, perché la riconosce subito, è semplice ed efficace. Ripetimi il coso, mi ha detto Lima, India, November, Quebec, e poi? Ecco, la marca è quella, poi è, sotto c'è scritto 3D Sound, che vuol dire suono 3D, che a noi ci interessa un banale mono. Sì, quindi prendo una di quelle, e proprio c'ha la figura di una pennina, confermi? Assolutamente sì, la classica pennina USB. A posto di essere una memoria è una scheda audio, tra l'altro anche trasparente. No, non so cos'è il problema, e questo cacchio di computer non vorrei che rimane, che allora davanti ne ha 2 di ingressi USB, e per cui uno lo utilizzo per la come cacchio si chiama, per il mouse, me lo sto mettendo davanti, ne tolgo la pennina che è troppo ingombrante davanti e me lo lascio libero, quel posto la pennina ce la metto dietro, però voglio metterci una tastierina o 2 tastierine, si possono mettere nel computer o devi lasciare sempre una? Perché 2 tastierine? Queste cose strane, cosa sono? No, per dire, questa che c'è installata adesso è grande e l'ho messa dietro, l'ho attaccata dietro, però ne è una piccolina comoda che ho preso dai cinesi, di quelle basse, leggere, e la voglio mettere qua davanti e vale eliminare questa. Non so, vedi tu, ma metterne 2 mi sembra uno spreco, funziona, no? Però adesso te la faccio vedere se c'è un'immagine. Aspetta. Ma dimmi una cosa, quei programmi, quelli SDR Sharp, quella roba lì ce li hai tu? Sì, ce li ho tutti. Perché così mi eviti se sei disponibile. Io ce l'ho installati nell'altro computer, me l'aveva messi Claudio Di Muro, che lui è molto appassionato di tutte queste cose qua. Siccome mi ha ordinato una di quei ricevitori tipo pennine USB, però più voluto, con 2 ingressi d'antenna per le HF e per le U. V e U, l'altro ingresso, c'ha 2 ingressi separati, diciamo, dovrebbe essere una cosa un po' meglio del coso, di quello lì. Però mi ha detto, dobbiamo installare i programmi, tu riesci a farli come abbiamo fatto adesso, a rimettermi anche quei programmi per leggere quella specie di pennina, dai, chiamiamola pennina. Beh, uno ce l'ha già. Ascolta, guarda lo schermo, la vedi questa pennina? Sì, capito, questa 3,94, quella trasparente, dici? Sì, sono queste che c'hanno i cinesi. Però l'importante è che tu vedi che c'ha le uscite, le vedi? Le vedi che c'ha il microfonino dove ti sto segnando? Le vedi qua? L'importante è che c'abbia un ingresso microfonico e un'uscita per le cuffie. Esatto, questa è una scheda audio funzionalissima per questa operazione, tra l'altro 5.1, vedi? Link. Dai cinesi la paghi una fesseria ed è molto utile. Se poi ti trovi anche un po' di cavetti per fare collegamenti, ad esempio qua, se fu una cosa a toga, su questa ci puoi collegare un doppio coso audio, facciamo anche quelli, non sono magari tramite l'audio te lo faccio avere, per collegare sia gli altoparlanti e sia l'uscita audio che va all'apparato per la trasmissione, così quando lui trasmette tu lo senti proprio, senti il tono ta ta ta ta ta ta, ta, se non ti dà troppo fastidio perché è rumoroso. No, invece c'è un doppiatore di ingresso, sta dicendo. Sì, esatto, un doppiatore in inglese che ce li hanno. E poi cosa ti serve? Quindi il mouse, questa chiavetta e credo nient'altro, se c'è una resistenza, giusto per non stare lì a attenuare tutto quanto sempre, quante, per andare in trasmissione soprattutto, una scheda, vabbè, poi magari c'è qualche schemino. Sì, è una domanda, tu mi hai detto 5.1, ma questa 3D Sound è superiore al 5.1? Guarda, io ti posso dire, su questa scheda che lavoravamo benissimo, le utilizziamo un po' tutti per i scopi, tra l'altro c'è anche un bel vantaggio di non essere troppo interferita, diciamo così, dalla RF. Quindi va bene, ecco. Sì, non costano poco, pensavo fossero più costose, ormai con la tecnologia, cacchio, te le vendono. Figurati, se le vendono a 3,94, cosa costa a produrle queste? Beh, ma se vai lì te ne accorgi, perché vedi la gente con la frusta che dice voga, cioè adesso non dice più voga, dice produci, produci, e poi le danno una ciotola di riso di quello pure scadente. Guarda, io sto parlando con un amico, non so se te l'ho raccontata la storia, che il suo amico lavora in Cina, c'ha una fabbrica in Cina di, non mi ricordo di cosa, elettronica, adesso non mi ricordo se metto roba a pannelli solari o cosa del genere, e lì funziona così. Allora loro ti attirano i soldi per aprirti una fabbrica, tu vai italiano perché sono molto apprezzati gli italiani, tu gli devi dare l'80% della produzione, il 20% te lo gestisci tu come vuoi, loro ti danno, ti aprono, dice va bene farla con la fabbrica, ti aprono la fabbrica di lì, quanti operai hai bisogno? 3.000 operai, allora prendono da un paese, da una cosa, loro hanno già gli operai pronti, ti danno 3.000, per dire sono a 1.000 km di distanza, beh da oggi voi andate a lavorare di lì, ci servono 3.000 muli da lavoro, perché per loro sono un mulo da lavoro. Mi ha raccontato dei particolari, guarda, se ti metti le mani in testa sembriamo al tempo del Medioevo. Dice, questo proprietario dice è onnipotente con questi operai, dice sono tutta gente assolutamente preparata, nel senso come cultura sono, molti sono, la maggior parte sono tutti laureati, gente così, ingegneri, dice sono tutte a testa bassa tutto il giorno, e lui ha dovuto assumere del personale dall'Italia, degli amici suoi, per controllare che non si facessero male questi qua, perché ci sono un sacco di infortuni frequenti, e lì quando ti rompi un braccio e cosa, non è che ti mandano le malattie, ti bigliano e ti si mandano, è finito di lavorare. Infatti dice trovava gente lui col dito fratturato, col braccio, cose del genere, si nascondevano, avevano terrore a farsi vedere, perché li vedevi sofferenti lavorare facendo certi tipi di lavoro. E se tu per dire le donne, le cose del genere, tutti a testa bassa, non ti guardavano gli occhi, se tu volevi fare il cattivo dicevi, vi racconto verità, non sono male, e per dire, vedevi una tipa, non lo so, che ti era antipatica, dicevi questa mi ha guardato male, fatela, allontanatela, la fanno sparire, non si sa dove va a finire. Dice a quei livelli lì cose allucinanti, dice questa è stata la cosa, l'esperienza più brutta che ho avuto in vita mia, vedere queste persone peggio degli animali, cioè li sostituiscono, non ti piace, mandalo via, spariscono, non si sa dove vanno a finire. Quello è niente, tu devi vedere quello che succede in India, che è molto peggio. Te l'ho detto, loro si consideravano polli, quindi al pollo cosa le puoi fare? Spennare, picchiare, tirare il collo, tutto quanto le puoi fare, nessuno ti può dire niente. Anzi, se vai a protestare ti dico anche, è colpa tua, tu devi fare il pollo, punto. Sì, ma lui mi ha detto, io ero il Dio sulla terra, dice, se io volevo prendermi una donna, per dire, mi piace una donna, lei si rifiuta, io posso dirle, quella lì è stata, e la fanno fuori, la fanno sparire, dice, cose, dice per me è stata la cosa più brutta della vita mia, vedere io il mio coso di onnipotenza, dice, rispetto a questi poveri operai che sono delle persone laureate, dice, tantissimi ingegneri, gente così pigliano, mi servono 1000 persone, le prendono da una cittadina, da qualunque posto che vogliono loro, 1000 chilometri di distanza, portami 2000 animali da coso, da lavoro, sono peggio degli animali li tratta, è uguale, dice, la paura mia, dice, se si fanno male, perché quando si fanno male, capita, spariscono, non si sa dove vanno a finire, non è che c'è la cassa integrazione, l'assistenza sociale, dice, lì proprio spariscono, non sei idoneo al lavoro, buh, e ti si mandano. E questo ci dovrebbe fare molto, ma molto, ma molto apprezzare la libertà che ci abbiamo noi e tenerla ben stretta, perché all'orizzonte c'è sempre qualcuno che ce la vorrebbe togliere e bisogna farlo capire che tutto può succedere nella vita. E io ho visto anche cose peggiori in Somalia, in Eritrea. Non so, io ho visto cose allucinanti, un ragazzino, perché solo perché magari si voleva sfamare, preso e portato in una stanza schifosa, quello là ha preso un coltellaccio, ne ha steso la mano e ha iniziato a tagliare, due che lo mantenevano dietro, ha tagliato la mano, poi è andato più giù, dall'altra parte l'ha tagliato pure la gamba, dal ginocchio, l'ha tagliata e poi l'hanno fasciata la bella meglio, beh, è quello sveglio, beh, adesso sei stato punito, ti portano su un furgone, chissà che fine ti fanno fare, ma delle cose allucinanti veramente, l'essere umano è proprio cattivo. Sì, sì, lo so, ma a me mi ha fatto vedere delle immagini, questo amico mio che l'aveva, adesso non c'è, con quest'anno ha finito, anzi con l'anno scorso in Nigeria, mi ha fatto vedere delle immagini, dice, di morti in mezzo alla strada, tipo gli animali che tu vedi nella 131, che passi la mattina, dopo ripassi dopo 2-3 giorni, sono sempre di lì secchi, tipo un animale, buttati di lì, ammazzati a colpi di macette, a colpi di pietra, gente così, poveracci, che per dire magari non si sa cosa abbiano fatto, li lasciano buttati in mezzo alla strada, poi ci vanno gli animali e se li mangiano. Ma io ho visto, guarda, un attacco, diciamo, da parte di questi pazzi furiosi, no? Cosa hanno fatto? Hanno sparato a questi due ragazzi, e deve essere, li avevano già presi d'occhio sempre da quelle parti, no? In Africa. Una volta che li hanno feriti gravemente, probabilmente qualcuno è anche già morto perché erano in condizioni estreme, li hanno spogliati, non ti dico cosa li hanno tagliato e alla fine si sono messi a tagliare pure la testa e li hanno tirata proprio, ma con una cosa dire, se domani dovrebbe venire l'astronave e vedesse delle cose del genere, ci farebbe un pensierino, o a farci fuori tutti a liberare la Terra da questo strano parassita che si chiama essere umano, oppure se ne andrebbero scandalizzati, ecco. Sì, lo so, purtroppo è uno schifo. E poi quando circola, è iniziato l'uomo, quando è iniziato a circolare il denaro, di lì è finito tutto, tutto, tutto. E più sta andando, sta diventando peggio. Noi che abbiamo acquisito certe libertà, piano piano stiamo perdendo molte libertà e io me ne accorgo giorno dopo giorno, sta diventando una cosa un pochettino pericolosa. Ok, qua stiamo vedendo qua, riduce, ah no, ho visto un attimino l'immagine, questo sta ancora caricando le immagini meteo, le rumori di fondo, basta. Sì, quello sì. No, adesso esco, però mi sconnetto, poi tu puoi anche chiudere tutto. È già tardi per me, anzi sono già uscito, poi domani se ci sei, non so a che ora, ti manderò tutta una serie di programmi che servono per tante cose, per questo cavetto che si può già collegare, un cavetto stereo da una parte e stereo dall'altra. Sarebbe l'ideale per collegarlo, per farti vedere come funziona, non per fare un collegamento definitivo, però giusto per vedere come funziona. Sì, vediamo di fare anche quello lì. Dimmi una cosa, ma se attacco io adesso l'attacco, quello del microfono dove abbiamo messo questo cavo fittizio, si blocca tutto? No, ho capito, se attacchi il microfono dove? Adesso io ho lasciato inserito, come mi hai detto tu, il cavo, il mini jack nell'ingresso microfonico del case. Se io lo attacco, tutta questa roba che c'è qui adesso si blocca, perché deve avere una connessione per funzionare così? Più o meno sì. Però staccalo pure e spegni, tanto se ti prendi quella chiavetta pure questo problema non ce l'hanno, quelle, è per quello che ti ho chiesto di comprarti quel tipo di chiavetta lì, capito? Perché è meno complicata, facilissima da gestire, e la scheda audio magari quella del computer inserita dentro te la utilizzi per ascoltarti altre cose, ecco, una sorta di full duplex. Ah, stai uscendo tu, esci tu da questa pagina o che cosa? No, è sotto il tuo controllo, io sono già uscito, sto anche spegnendo il PC. Ah, così, allora aspetta, qua c'è scritto, questa era una sessione gratuita, sponsorizzata, eccetera, eccetera, grazie, rispettate questo gruppo, acquista, ricetta, cosa c'è scritto? Valutaci, è ok, esco questo passo qua. Sì, no, quella è gratuita, la licenza è per uso professionale, quindi no, non acquistare niente, è tutto gratis, finché ce lo lasciano. Adesso sto spegnendo il computer. Per ultimo, abbiamo lavorato un bene. E si è fatta tardi, anche lo stomaco sta protestando, c'è ora di mangiare qualcosa. Comunque ti ringrazio, è stato gentilissimo, ti ho fatto perdere un sacco di tempo, soprattutto con questa cagata di mouse. Contratterò con cavo. Certamente che sì, ma chissà, lo sai quanti ne avrò in officina, tu non hai idea, perché prima avevamo il computer fisso, poi ho messo il portatile, però sicuramente ne ho qualcuno a parte. Adesso guardo se lo trovo nel cassetto dell'ufficio, ce ne ho due o tre, se no vado e vado e lo compro. Infatti guarda che i cinesi ce l'hanno comunque, comprati anche il cavetto che ti ho detto, quello stereo, così domani puoi anche ricevere già, giusto se c'è problemi di fare saldature, poi quando imparerai a farti le saldature ti farei quella presa famosa CC2 che ti permetterà anche di trasmettere. Però già con quella sei in grado di andare a caccia, capito? Se tu dici che teoricamente senza utilizzare la CC2 possiamo già fare qualcosa? No, cosa teoricamente? Certamente, scusa, io ho una piccola esperienza di 30 anni su queste cosette, quindi sono 30. Da buco su cuiccio, comunque vabbè, lo puoi fare tranquillamente, ti lo metti sulla presa, alcuni, no, quelli sono i ricevitori hanno anche la presa recorder, se non ricordo male, giusto? Sì, il ricevitore c'è la presa recorder, l'ICR7000 c'è davanti la presa recorder. Vedi, da lì se ci fosse stato anche su 2000 sugli apparati HF, invece c'è solo phone. Comunque va bene, la collega alla cosa phone quando sente il segnale, mettendo le cuffie l'altoparlante si staccano, credo. Sì, certo. È per quello che ti ho detto che ti serve uno sdoppiatore, ce l'hanno i cinesi, ce l'hanno, quindi quello ti sarebbe utilissimo. Poi cosa c'era? E poi no, non lo ricordo più, devo andare a cenare. E anche io vado a mangiare, dai, che c'è un po' di fame. Comunque ti ringrazio di nuovo, dai, ci sentiamo domani e ci aggiorniamo. Grazie di nuovo, ciao, buonanotte e alle prossime, ciao. Ok, ci sentiamo a domani. Tanto io ci vedo anche di mattina, se non c'ho problemi, se no alla solita ora di sera. Sì, vabbè, io chiamo poi se ci vediamo, se coincide, se no solita ora di sera. Va benissimo, di nuovo, ciao. Ok, ciao, chiudo.